Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune brevi informazioni di servizio. Il nostro sito radio24.it. Lì trovate anche sotto il mio profilo il blog Guardie o Ladri. Lo trovate con qualunque motore di ricerca. La seconda informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mail che da un paesino in provincia di Piacenza, Vigolzone, è stata raggiunta dalla nostra radioascoltatrice Milena Morosoli, che, come dire, lamenta un disservizio e comunque un rapporto abbastanza critico con Fastweb. Voi sapete che io non prendo mai in considerazione casi privati. Ne giungono tanti, ma francamente è impossibile prenderli in carico, a meno che non rappresentino una pluralità di persone che si trovano in identiche o analoghe condizioni. E direi che proprio qui ci siamo, perché Milena Morosoli, la nostra ascoltatrice, opera in una piccola media azienda che si è abbonata al servizio Fastweb e che da questo ha avuto qualche problema. Quindi io do il buongiorno alla nostra ascoltatrice Milena Morosoli. Buongiorno. Buongiorno. E do il buongiorno ovviamente anche al responsabile del servizio clienti per le piccole e medie imprese di Fastweb, che è il dottor Gianfranco Calabrese. Buongiorno, buongiorno. Calabrese. Buongiorno. Allora, direi di partire da lei, Morosoli. Che cosa è successo alla vostra attività economica in quel di Vigolzone in provincia di Piacenza? Niente, è successo che in pratica ai primi di marzo mi sono accorta che una fattura di Fastweb era completamente errata nei calcoli, e quindi io contatto sia il promoter che Fastweb e sollecito diciamo la correzione di questa fattura. Niente, mando tutta la documentazione, quando poi la fattura successiva si ripresenta con lo stesso problema. Un secondo, io la vorrei però fermare qui per chiedere alcune cose che poi serviranno anche a Calabrese. Sì. Lei si rende conto che questi calcoli sono sbagliati e parla o scrive a chi? Contatto sia il promoter che mi aveva fatto il contratto e sia il servizio clienti di Fastweb. Benissimo. E mando sia la documentazione con i calcoli effettivi. E le rispondono. Ecco, le rispondono gentilmente, ci pensiamo noi, abbiamo capito qual è il problema. Esatto. Non si preoccupi, stia tranquilla. Stia tranquilla, ma sollecitano comunque il pagamento, perché loro dicono che la fattura comunque è stata emessa e quindi deve essere pagata. Ed eventualmente scalato l'importo in più dalla successiva bolletta. Oh, vede come sono intelligente? Bravo. Bravissimo. Ho studiato un pochino. E che cosa accade invece con la seconda bolletta? La seconda fattura è peggio della prima. No, non mi dica così. I calcoli sbagliati. Non mi dica così, che ci sto male io. No, è peggio della prima, quindi io rifaccio tutta la stessa procedura. Devo dire che gli operatori molto gentili riaprono la procedura, certo, e tutto quanto, certo, e mi dicono che mi avrebbero fatto sapere. Con quale bolletta? Questa praticamente per me era la terza bolletta di Fastweb, certo, quella dei primi di aprile, certo, in pratica. Benissimo, quindi ovviamente doveva continuare a pagare e nella terza bolletta gli scontavano quello della prima e quello della seconda. Sì, però io non ho comunque comunicato che io non avrei pagato comunque la fattura, perché nel frattempo io ho contattato il commercialista che mi dice che le fatture comunque devono essere messe in modo corretto, perché certo, è sbagliato anche il certo, calcolo dell'IVA. Certo, questo è giustissimo, effettivamente c'è poi per chi ha una piccola media impresa un problema di fatturazione sacrosanta. Esatto. Qual è la situazione oggi? Diciamo che da circa 2 giorni o 3, adesso non mi ricordo, mm-hmm, comunque da lunedì pomeriggio, mm-hmm, mi hanno riattivato il servizio. Adesso più di 2 o 3 giorni, non una settimana, perché adesso mi hanno riattivato il servizio. Penso, non so se è stato grazie al vostro intervento. Guardi, comunque diceva una persona che in Italia ha dominato, a pensar male si fa peccato, ma qualche volta però ci si azzecca. Io premetto che ho pagato. Perché nel frattempo, ecco, noi ci siamo dimenticati di dire, l'ha dato per scontato, l'ha fatto capire, che Fastweb le aveva interrotto il servizio. Esatto, certo. Il problema è questo, posso dire brevemente. Come no? Che in pratica loro mi hanno emesso 2 fatture per un importo superiore a 800 euro, quando in realtà quello che io avrei dovuto pagare era poco superiore alle 200 di entrambe le fatture. Bene, bene, bene, il caso è chiarissimo. Allora, andiamo con il dottor Calabrese, che è responsabile proprio di questo. Insomma, dottor Calabrese, se dovete stare vicino alle piccole e medie aziende, questo non mi pare il modo migliore. A lei la parola. Grazie. Beh, allora, innanzitutto mi voglio scusare con la signora Morosoli per quello che è avvenuto a nome di Fastweb, per il disagio che comunque abbiamo dato alla sua azienda, questo come premessa. Il problema che ha descritto la nostra cliente è stato generato sostanzialmente da un errore di fatturazione, evidentemente, che capita mai, ma c'è stata questa anomalia. Evidentemente la nostra cliente, come ha già confermato lei stessa, ci ha contattato, i nostri operatori del servizio clienti hanno fatto gli opportuni controlli, hanno verificato questo tipo di anomalia e le hanno proposto quello che noi chiamiamo rimborso, evidentemente. Sì. Qui c'è stato probabilmente un difetto di comunicazione, perché da un lato la cliente non ha, ovviamente ha sospeso i suoi pagamenti, quindi non ci ha pagato nessuna delle fatture che era stata emessa e che correttamente i nostri operatori comunque le avevano suggerito di pagare, perché noi abbiamo comunque un sistema molto complesso di fatturazione, siamo una grande azienda, abbiamo 1.800.000 clienti, quindi lei capisce bene che tipo di però di io difficoltà qui, che ci però sono. Io qui, Calabrese, vorrei un attimo interrompere per dirle. Capisco perfettamente i problemi nella gestione di 1,8 milioni di clienti, ma il commercialista della signora Morosoli ha detto la fattura deve essere corretta, lei non può pagare una fattura che è sbagliata, che è riconosciuta poi onestamente da voi come sbagliata. Quindi voglio dire, qui il sistema probabilmente vostro di comunicazione oltre che di attrezzatura tecnica deve essere migliorato, perché non si può emettere una fattura sbagliata e non può essere pagata da chi poi dietro ha una rete di commercialisti che dice no, la tua fattura deve essere corretta. Allora, sicuramente ci sono i miglioramenti, ci sono sempre da fare, certo. Quindi evidentemente non posso che essere d'accordo con lei. Qui il tema vero è che noi abbiamo, come dire, dichiarato immediatamente la nostra, come dire, la nostra presa di responsabilità, certo, e la disponibilità a un rimborso subitaneo. Dopodiché non c'è stato, come dire, non c'è stato poi un'ulteriore comunicazione tra noi e la cliente se non dopo alcuni giorni, e quindi mi collego anche a questo per dire che la sospensione del servizio a cui faceva riferimento, esatto, la signora Morosoli precedentemente è avvenuta alla metà di giugno. Ecco, ma io mi chiedo questo. Ma è perché è un sistema automatico, ecco, solo per completare, ecco, lo scenario, ma infatti, perché è un tema, benissimo, automatico, è un processo che automaticamente si innesca per i nostri clienti morosi. Allora, però io le chiedo questo, così come automaticamente, ed era proprio quello che volevo sapere, lei lo ha detto, si innesta un sistema, diciamo, di interruzione del servizio se un cliente non paga, perché voi non innestate automaticamente anche un sistema che riconosca che a fronte di vostri errori quel servizio non si interrompe, ma invece si dialoga con il cliente? Lo dico perché ci perdete voi e anche il cliente, non lo dico perché ci guadagno io. Assolutamente. Allora, assolutamente. Ecco. No, ma è molto corretto, guardi, noi, adesso sembra facile dirlo, ma effettivamente capita così, siamo molto attenti alle esigenze dei vari clienti, quindi ai vari clienti morosi, soprattutto ai clienti morosi, proponiamo, come dire, dei piani di rientro, piuttosto che delle soluzioni le più idonee possibile per poter regolarizzare il nostro rapporto e continuare il nostro rapporto di collaborazione. Quindi è una cosa che facciamo abitualmente. Ma questa volta avete risolto con la signora Morosoli, cioè finalmente arriveranno? Abbiamo risolto, nel senso che abbiamo regolarizzato i pagamenti, noi abbiamo provveduto istantaneamente ai rimborsi, credo con soddisfazione, tanto che la signora ancora, benissimo, come dire, la nostra base clienti, benissimo, quindi è ancora una vostra cliente. Allora, Calabrese, io la ringrazio per la sua disponibilità, grazie per le sue spiegazioni, la parola conclusiva a Morosoli. Lei è ancora innamorata di Fastweb? No, perché non funziona come ha spiegato il dottor Calabrese, cioè se vuole io le spiego come funziona. Perché le spiego, quando a me hanno mandato una comunicazione di sospensione del servizio a fine aprile, okay, con un numero da contattare, non i soliti numeri 192193, sì, un numero fisso da contattare per questo problema. Io ho contattato il numero che mi ha confermato l'errore di Fastweb e mi ha prorogato di un mese la sospensione, dicendomi che ci saremmo sentiti entro il mese successivo per prorogarlo di un ulteriore mese, perché loro più di un mese non possono fare. E invece non si sono fatti vivi? Quindi la comunicazione da parte mia c'è stata. Benissimo, perché io benissimo. Avevo paura che mi sospendessero. Esatto. Il servizio, allora, okay? Allora, un'altra cosa, no, le dico velocissima, cosa, velocissima. Di allora, le dico questo, io ho pagato, cioè, siccome io ho chiamato di nuovo Passo e mi hanno confermato 2 giorni prima del mio pagamento che esistevano queste note di accredito, ma che comunque loro avevano 90 giorni di tempo per emetterle, ok? Allora io cosa ho fatto? Ho pagato le due fatture detratte le note di accredito. Bene, Morosoli, io la ringrazio. Il caso è chiaro anche nella diatriba tra cliente e impresa. Fastweb si è impegnata a risolvere il caso. Se così non fosse, invito la nostra radioascoltatrice a dirci: cara Radio 24, un abuso al giorno, @radio24.it. Fastweb si è resa inadempiente. Richiameremo Calabrese, ma vedrà che questo non accadrà. Sono sicuro che il caso sarà risolto. Grazie in regia Valerio Rocchetti, e in studio Antonella Migliaccio, Valeria Coffaro e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.